tutte e tutti e ben ritrovati a Uru. Se ci state ascoltando avete due possibilità, cioè siete su wombat.noblogs.org oppure potete ascoltarci sulla M, le onde medie, all'1359. Mi raccomando, seguiteci anche sulla M e diteci dove ci sentite e come ci sentite scrivendoci apposta wombat@insiberia.net. Vi ricordiamo anche il profilo twitter.com/radiowombatfi e il profilo di Uru, che è uru-rw. E partiamo per la 46esima puntata. Sì, 46esima puntata di Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano. E così come il dicembre scorso, l'anniversario dell'uccisione, del massacro, della strage di Piazza Dalmazia all'opera di un fascista, Gianluca Castri, che uccise Samba Modu e Diop Mor, anche oggi ecco, vogliamo dedicarla a Idi Diene, ucciso lunedì scorso Ponte Vespucci da un bianco, un nero, e questo, si continua a pensare, a dire anche in questo caso in particolare che un folle, sta di fatto che il folle che motiva, anzi non motiva neppure la situazione, comunque la motiva dicendo ero uscito per strada per sparare a un a caso, in realtà prima di puntare la pistola alla testa di Didiene ha lasciato passare un bel po' di bianchi, per cui per quanto ci riguarda sembra proprio la fotografia della guerra tra poveri, in cui poi alla fine soccombe quello meno garantito, meno quello diciamo nella scala più bassa, diciamo, la scala sociale più bassa. Sta di fatto che un altro lavoratore senegalese è stato ucciso in strada a Firenze, e Didiene, che tra l'altro era amico fraterno di uno dei due uccisi in Piazza Dalmazia. Domani, sabato appunto, alle 14.30 in Piazza Santa Maria Novella, una manifestazione per dire basta al razzismo e per ricordare i Didiene. E appunto 46esima puntata di Uru, e quindi suoni dal Senegal, scusate un po' di problemi. Sì, partiamo subito con il primo musicista, Hassane Ndiaye, nato a Dakar, Senegal appunto, in una famiglia di griot, fratello di Tione Seck e Mapenda Seck, anche loro due artisti abbastanza famosi senegalesi. Hassane è autore, compositore, cantante, percussionista, suona la batteria sabar e appunto batterista, considerato uno dei più grandi interpreti della scena senegalese. Sviluppa con il suo gruppo Nguele Gui un balax, che è un genere musicale nato e cresciuto dai griot dell'etnia Wolof, maggioritaria in Senegal, che veniva accompagnato appunto con il sabar, uno strumento a percussione tradizionale. Quindi sviluppa questo genere musicale tradizionale, però miscelandolo con il pop, con un pop molto ritmato. Soprannominato voce d'usignolo dai suoi fan, si esprime con voce tenorile, i suoi pezzi parlano soprattutto della vita quotidiana. Di lui ci ascoltiamo Gustal. Limale yene yene o mabu, benwe hna lo. Africa esisteva ben prima che le donne in Occidente cominciassero a scendere in piazza per rivendicare il proprio spazio nella società. E l'influsso europeo non ha fatto che neutralizzare e poi appiattire nell'uniformità una tradizione autoctona che permetteva alle africane di emergere nella loro comunità, senza che nessuno si scandalizzasse. non usa mezzi termini, Silvia Serbin, di cui questa è che leggo e che leggerò è una parte di un'intervista. Lei è una storica e giornalista afro-antillana che ha messo al centro dei propri studi l'attivismo femminile nero. Studi che tra l'altro sono confluiti in un volume, un libro che si intitola Reine d'Afrique, eroine della diaspora noir, dedicato a grandi protagoniste che hanno fatto la storia dell'Africa e della diaspora. Le donne africane si sono sempre coinvolte nelle grandi imprese e nelle lotte della loro società. E invece i media occidentali tendono a trasmettere di loro solo l'immagine di vittime, dell'ignoranza, della miseria, della mancanza di cure, dell'AIDS, che sono problemi reali, ma mostrare solo questo aspetto significa relegare nell'ombra un gran numero di donne d'azione, protagoniste, per esempio in quasi tutti i campi dell'economia, dell'agricoltura, del commercio, passando per settori come la ricerca o la finanza. Non parliamo abbastanza di tutte quelle combattenti, eredi di personaggi come la regina Anna Zinga d'Angola, che nel XVII secolo resistette per 3 decenni ai conquistatori portoghesi, o come la senegalese Ndete Yalla, che nell'Ottocento guidò la resistenza alle truppe del generale francese Faidherbe. Ma anche profetesse dei nascenti nazionalismi, la più nota è la giovane Kimpa Vita, la Giovanna d'Arco congolese, che creò un movimento messianico anticoloniale e che nel 1706 finì 22enne sul rogo. O ancora Madame Tinubu, grande commerciante e potente politica della Nigeria del XIX secolo. La vera domanda che dovremmo porci è perché nell'ultimo secolo e mezzo questa tradizione ha avuto una forte battuta d'arresto? E la risposta, dice Silvia, appunto da cui è tratta questo pezzo di intervista, credo che questa cancellazione della donna africana sia dovuta all'impatto di influenze esterne che hanno gradualmente allontanato dalla scena pubblica le ragazze per tornare a relegarla ai fornelli. È evidente che con l'avvento dell'Islam, regine e donne d'azione ammirate nel loro tempo si trovarono cancellate dalla memoria storica per dettami spacciati come religiosi. L'occupazione coloniale da parte di società europee di stampo patriarcale completò in seguito l'opera di esclusione delle donne dalle funzioni economiche e sociali detenute anteriormente, a vantaggio di un'autorità esclusivamente maschile, e lo fece con la complicità della scuola. Attraverso la politica di assimilazione, la scuola coloniale contribuì, per esempio, a diffondere un modello che assegnava alla donna indigena i lavori domestici, a immagine dell'europea, sposa, riproduttrice e senza diritto di voto fino alla metà del XXI secolo. Se da una parte l'istruzione favorì certamente l'emancipazione di un'elite portatrice di nuove ambizioni, relegò però la grande maggioranza delle donne, quelle non alfabetizzate, scusatemi, a uno status sociale marginale, a differenza del passato, quando un temperamento forte poteva bastare a proiettare una ragazza verso un ruolo importante nella propria comunità. Sì, continuiamo con Uru, suoni, musica e notizie, appunto, una notizia, un pezzo di intervista, appunto, in occasione dell'8 marzo, oggi siamo in 9, ma comunque sempre in tema rispetto anche alla manifestazione, si sono succedute, si sono svolte in tutto il mondo e quindi anche in Africa ieri. E appunto 46esima puntata dedicata al suono del Senegal, proprio quindi a un pezzo della cultura senegalese, proprio per dare il nostro contributo a far capire quelle che sono le idee, quelle che sono i passaggi, quella è la vita, diciamo, quello che doveva essere, che sarebbe stata la vita di Etienne, così come tanti altri come lui, appunto, che sono qui, sono migranti, e che appunto Etienne è stato assassinato lunedì scorso a Firenze su un ponte, sul ponte Amerigo Vespucci. Ricordiamo l'appuntamento per domani alle 14.30 in piazza Santa Maria Novella per una manifestazione. E a proposito di musica del Senegal, ci sentiamo Malang Mane adesso, musicista proveniente dalla Casa Mans, che tra l'altro è una regione particolare del Senegal, quella stretta, diciamo così, tra il Gambia, che il Gambia a sua volta è questo pezzo, questa striscia che si incunea, che partendo dall'oceano appunto si incunea all'interno del Senegal e che sotto certi aspetti divide proprio quella della parte, da un punto di vista geografico più estesa del Senegal, a quella è la Casamance, che appunto cioè, da una parte è Gambia e dall'altra parte confina con la Guinea. È una regione in cui tra l'altro che si riconosce sì all'interno della geografia senegalese, perché però molto spesso, che però a volte ha, e anche in campo musicale, ha diciamo delle caratteristiche proprie, oltre che esserci stato anche da un punto di vista politico una rivendicazione continua di indipendenza, se non altro di autonomia dal Senegal. Quindi appunto ci ascoltiamo Malang Mane, senegalese della Casa Mans, il pezzo è di Amano Bidula al Mativuna. Thank you. Continuiamo con l'intervista di prima di Silvia Berin, poi però arrivò il femminismo occidentale e fin dall'inizio ci furono donne africane che si coinvolsero in questo movimento per tentare di ritrovare i loro diritti perduti e che conquistarono la scena politica internazionale. Basti pensare a protagoniste come la liberiana Angie Elizabeth Brooks, titolare di un dottorato in diritto, che nel 1969 presiedette l'Assemblea Generale dell'ONU, o la guineiana Jean-Marie Martin-Cissé, ambasciatrice del suo paese alle Nazioni Unite e prima donna e finora unica ad avere presieduto il Consiglio di sicurezza dal 72 al 76. Ciò che può far sorridere, tuttavia, è che queste attiviste, a immagine delle colleghe occidentali, lottavano per la conquista di posti simbolici per le donne negli esecutivi, quando in passato le società africane avevano conosciuto un potere femminile reale. Allora, vedere che tuttora le quote rosa sono viste come un passo in avanti fa specie. Oggi molti passi sono stati fatti e l'Africa può vantare grandi personalità come la presidente liberiana Ellen Johnston Sirleaf o l'attivista premio Nobel Wangari Maathai, ma quello che dà forse più speranza, conclude Silvia, sono le tantissime eroine quotidiane, contadine che lavorano duramente e si organizzano in cooperative per ottenere il diritto al credito e modernizzarsi, con commercianti audaci, madri di famiglia che si arrangiano tra varie attività informali per dare da mangiare ai loro figli. Milioni di donne che, ad immagine delle loro antenate, si impegnano coraggiosamente in battaglie politiche e civili per la democrazia, l'istruzione e la sanità. Donne che tengono in piedi il continente e che dovrebbero essere valorizzate molto di più. Sì, sempre all'ascolto di Uru, sempre all'ascolto di Radio Wombat, che potete appunto, la state ascoltando in streaming sul sito wombat.noblogs.org e che da lunedì scorso potete ascoltare anche sulle frequenze AM a 1859, ancora sperimentale, per cui vi chiediamo, nel momento in cui l'ascoltate, come la sentite, dove la sentite, magari mandando un'email a postawomba@insiberia.net. Ricordiamo anche che Uru, oltre ad andare in onda in diretta il venerdì alle 21.30, per le state ascoltando, va in replica la domenica alle 23 e il lunedì alle 8.30. Ricordiamo anche Uru ha un proprio profilo Twitter che è Uru_RW, appunto, sta per Radio Wombat. In cui, seguendolo, potete avere aggiornamenti rispetto alla trasmissione e rispetto anche alle notizie sul continente africano, di cui appunto diamo in trasmissione, ma che diamo anche attraverso questo social. E il prossimo pezzo è un pezzo di Baba Mal, un cantante, chitarrista e percussionista che è nato a Podoro, una regione, un luogo particolare. Podoro è sul fiume Senegal ed è la regione abitata dai Pular, la gente che parla Pular, e appunto Baba Mal è il principale promotore della tradizione di questa etnia che vive su entrambi i lati del fiume Senegal, questo grandissimo fiume che percorre tutta la regione, tutto il paese che gli dà appunto il nome e che era corrispondevano ai due lati del fiume, più o meno all'antico regno senegalese diffusa a Toro. E proprio per quelle sono le tradizioni e quelle sono i lavori della gente Pular, era immaginabile che Baba seguisse quella che era tutta la tradizione di famiglia, diciamo, e diventasse un pescatore. Ma sotto l'influenza del suo amico di tutta la vita, il chitarrista Mansour Seck, di cui tra l'altro abbiamo dato dei pezzi anche precedentemente in altre puntate di Uru, in particolare quella l'altra dedicata al Senegal, Baba si è dedicata all'apprendimento della musica tradizionale, appunto, che fa propria ed evolve, diciamo, utilizzando cantando e utilizzando, appunto, come detto precedentemente, la chitarra ma anche le percussioni. Di lui ci ascoltiamo Vango Harty. Oh, rondo e gaudo ngande di mala di mo juodani di ma kuna do koy golle balle ngare li ko dem yaade jamanu ngare li ko dem yaade jamanu jamanu jamanu jamanu jamanu jamanu jamanu di kam bi nene di ko suda bi nene di kam bi nene di ko suda bi nene bon no bada bi nene tamanja ma abiye ya ya bi nene eno tuma Dick, hari Dick, give me a neck, Elasa, Dick. Era appunto Baba Male, il pezzo si intitola Wango Haerty. E a marzo cade un anniversario riguardo all'Italia e l'Africa. Il primo marzo del 1896 l'esercito etiope guidato da Menelik asfaltava l'esercito italiano nella battaglia di Adwa. Intorno alle 5 di mattina appunto l'esercito italiano lascia le sue fortificazioni nella regione Tigray nel nord del paese. Adwa infatti si trova nel nord del paese, è guidato dal generale Oreste Baratieri, composto da un esercito composto da 20.000 uomini, appunto attacca, e l'armata italiana spera di attaccare di sorpresa l'esercito etiopico e sbaragliarlo in breve tempo. Non andò così, come appunto sappiamo. Gli italiani persero con migliaia di morti e prigionieri, e persero nonostante gli uomini Menelik fossero armati con armi tradizionali, scudi semplici fatti di pelle di animali e lance. E l'Italia, come tutte le potenze coloniali, non ricorda volentieri, e molto spesso non ricorda per niente questo episodio, e sui libri di storia a volte non viene nemmeno riportato. Noi lo ricordiamo e anche volentieri, diciamo, perché l'Etiopia appunto rimase indipendente, combatté e vinse contro il colonialismo fascista, colonialismo italiano, scusate, non fascista, dopo, successivamente, nel 36, scusate, nel 36 appunto l'esercito fascista appunto sempre nella stessa zona, in questo caso a Mahallè, prese un'altra asfaltatura e appunto non riuscì a conquistare interamente l'Etiopia. E appunto lo ricordiamo perché anche questo episodio del primo marzo 1896, perché passa spesso la convinzione del colonialismo in Africa non ha trovato l'opposizione degli africani e praticamente lo accettarono senza combattere, ma la storia è diversa. E in quel periodo, all'inizio del Novecento, fa fede anche la battaglia, la resistenza degli Herero in Namibia o quella degli Zulu in Africa e tante altre. E ricordiamo anche che appunto nella stessa zona, appunto, abbiamo già detto precedentemente, ci fu questa, questo intoppo, questa fermo, questo stop dell'armata italiana fascista che appunto non riuscì a conquistare l'interezza dell'Etiopia e poi successivamente al comando di Graziani, generale Graziani, del fascista Graziani, si lanciò in quello uno dei peggiori massacri sulla popolazione civile, i tre giorni ad Addis Abeba in cui furono uccisi migliaia e migliaia di cittadini, semplicemente cittadini, non neppure militari. E ricordando la battaglia di Adwa va anche detto che le poche volte, le volte in cui viene ricordata, viene messo in mostra l'eroismo dei soldati italiani. In realtà non andò così, ci fu non solo ci fu questa supponenza, questa sconfitta dettata soprattutto da una sorta di fascismo, scusate, di razzismo, è vero che le due parole sono molto spesso intercambiabili, di razzismo culturale, in cui pensavano che al di là della delle armi, diciamo, non forti, non precise, non potenti come quelle degli italiani, pensavano che tra le altre cose non ci fosse una tattica, una tecnica, diciamo, di guerreggiare, che la controparte, cioè l'esercito etiope, fosse indisciplinato, fosse che la prima avanzata dei soldati italiani sarebbe fuggito precipitosamente. In realtà a fuggire precipitosamente furono gli stessi soldati italiani, a parte alcuni episodi particolari. Lo stesso generale Baratieri fu sorpreso due o tre giorni dopo che mendicava acqua e che gli era stata data, tra l'altro, in un villaggio vicino ad Adwa. È interessante anche la zona in cui si è svolta la battaglia, perché ci sono queste tre colline vicine una all'altra, e quando gli abitanti del luogo parlano della battaglia fanno vedere chiaramente come su questa supponenza da parte dell'esercito italiano, una non conoscenza del territorio, insomma tutta una serie di componenti l'hanno portato alla disfatta. E quando sanno e stanno parlando gli italiani, come è successo a noi, iniziano un po' timorosi e poi via via, anche perché noi li abbiamo fatto presente, appunto non è che eravamo dei tifosi particolari, ecco, dell'esercito italiano, via via, insomma, non è che si galvanizzano, però insomma c'è questo orgoglio, appunto, di rappresentare, di parlare, di raccontare di un esercito male armato che è riuscito a sconfiggere una delle, tra virgolette, potenze coloniali dell'epoca. Torniamo a parlare di musica e lo facciamo con un cantautore musicista senegalese, cioè Ismaël Lô, che è nato in Niger da padre senegalese e madre nigeriana, ma ancora piccolo si trasferisce nella terra d'origine del padre, stabilendosi con la famiglia nel dipartimento di Rufisk, vicino a Dakar. Nel 1970 viene mandato a studiare presso la prestigiosa Scuola d'Arte di Dakar. Nel 79 prende parte a un gruppo musicale che si chiama Super Diamano, che è stato uno dei gruppi musicali più influenti del Senegal in quel periodo. E con loro incide nel 1981 il suo primo album, gruppo che lasciò nell'84 per intraprendere la carriera da solista. La sua musica è un insieme di melodie di chitarra tradizionali mischiate a melodie di genere Mbalax, che, come ho detto prima, è la tradizione di origine Wolof. Sentiamo Ismaël Lô con Talibe. Thank you. kore munen ke yalwan der bi de kore munen ke yalwan why masata luem luem yo taribe damam ka du badola munda fadigo Mambo ko ko disaga la ko lo ko warlo bugo ba mamu wala ndax babi dor ko tan ñu ngul ci xam xam ba de mom da de ngoo ama yaram na la dom janga janga ko magi bek dara Precedentemente, in una delle precedenti puntate di Uro, abbiamo parlato appunto di questa continua richiesta da parte di diversi stati africani, ma in particolare del Benin, del voler riavere il patrimonio artistico saccheggiato durante il periodo coloniale. Una richiesta legittimissima ed è dettata non soltanto da far rientrare nei propri paesi, nelle proprie patrie, pezzi di valore oppure pezzi artistici che le sono, di cui questi paesi sono legittimamente proprietari, ma anche perché il saccheggio ha significato anche una sorta di cancellazione della memoria storica e culturale di questi paesi. E appunto uno dei paesi portabandiera, più incazzati a questo punto di vista e più decisi nella richiesta di riavere indietro questi patrimoni artistici saccheggiati durante il periodo coloniale era appunto il Benin, e pare che dietro, in seguito a tutte queste richieste sempre più pressanti, il presidente francese, l'assemblea, il parlamento francese ha annunciato di voler restituire una parte, perché comunque si fanno sempre le cose a pezzetti, un tentativo di dare qualcosa, però non di dare tutto il legittimo, cioè da ridare, e appunto di voler restituire una parte del patrimonio artistico. Ma perché proprio Benin è tra quelli più decisi a richiedere questa cosa? Perché questo paese è stato appunto uno dei più saccheggiati. Il generale francese Alfred Amédée Dodds, che era a capo della spedizione a metà dell'Ottocento, guidò un saccheggio su larga scala di opere del regno del Dahomey, l'attuale Benin appunto. Dahomey era questo regno, si oppose al tentativo di colonizzazione francese per circa 15 anni, di cui appunto facevano parte l'esercito anticoloniale, anche le famose Amazzoni del Dahomey, Questo bottino oggi è esposto e custodito in diversi musei di Francia, in collezioni private. Tra le opere più preziose i troni dei re, Ghesobe, Hanzim e Glere, le statue li rappresentano. Si parla di migliaia e migliaia di oggetti che sono stati trafugati, sono stati saccheggiati. E queste, dicevamo prima precedentemente, non è detto, c'è soltanto un annuncio, appunto perché queste restituzioni non sono sempre state facili da operare. Gli stati, intesi come apparati, non fanno mai ammenda del passato. Per esempio l'Italia per decenni non ha restituito l'obelisco di pietra soltanto ad Aksum dalle forze fasciste nel 1936, appunto per ricollegarsi a quella, alla notizia precedente, con le obiezioni tra più svariare, ma tutte pretestuose: non c'era un aeroporto con le piste abbastanza lunghe, l'obelisco avrebbe potuto spezzarsi, non c'erano state adatte a spostarlo. Eppure nel 1936 tutte queste difficoltà erano state superate ed erano circa anni, decine e decine di anni precedenti, insomma, per cui si presume le piste e gli aeroporti erano molto messi peggio, dove le tecniche di conservazione dell'obelisco erano sicuramente molto peggio e non c'erano strade adatte a spostarlo. Per cui dall'Etiopia è stato spostato nel 1936 con tutte le difficoltà superate, e poi invece queste difficoltà erano diventate impossibili da superare per rendere l'obelisco di Aksum. E proprio appunto per la restituzione dell'obelisco nel 2005 migliaia e migliaia di persone di Etiopia attesero l'aereo nel piccolo aeroporto di Aksum, quando atterrò scattò un'incredibile festa generale. Rubare la storia ai popoli appunto è un danno come conquistare, e la restituzione è un atto dovuto. Sarebbe l'ora che tutte le opere saccheggiate, in questo caso dai francesi Benin, ma in generale dagli eserciti coloniali in Africa, venissero restituite ai legittimi popoli. Facciamo adesso un bel salto di musica e di periodo anche, perché ascoltiamo i Positive Black Soul, che è un gruppo hip hop con sede a Dakar in Senegal, ed è stato uno dei primi collettivi del genere nel paese. Fondato nel 1989, il suo fondamento è l'attivismo politico e sociale, che svolge un ruolo molto importante all'interno del gruppo. Denunciano spesso nelle loro canzoni le immagini dell'Africa nei media, che considerano unilaterali, e affermano: vogliamo mostrare la positività nell'anima nera, questa è la nostra lotta. L'Africa non è solo una terra di sofferenza, siamo orgogliosi di vivere qui e non stiamo soffrendo. Considerano il loro rap come un mezzo scelto in quanto modo accessibile per parlare di questioni come la corruzione e la politica. E loro dicono sempre: è il loro modo di combattere, alcuni usano le armi, noi la musica. E spesso suonano all'interno delle scuole, dell'università, proprio per far passare questo messaggio. Hanno uno studio di registrazione a Dakar, vivono tutti insieme, è proprio un collettivo da questo punto di vista. E lo studio di registrazione si intitola appunto Sankara, appunto dal nome del rivoluzionario burkinabé, e appunto lo studio di registrazione utilizzato in particolare per promuovere le attività, per promuovere i pezzi, per promuovere il rap, diciamo, dei ragazzini, dei giovani di Dakar. The Positive Black Soul, ci intitoliamo uno dei pezzi più importanti, ecco, della loro discografia, un pezzo che è dato ormai dal 1989, uno dei primi pezzi incisi, si intitola L'Afrique. Thank you.

Mi raccomando, ascoltateci non solo sul sito wombat.noblogs.org, ma ascoltateci in onde medie, in AM, al 1359. E diteci un attimo come va. Ricordiamo anche che le trasmissioni, oltre ad ascoltarle in diretta, in streaming o in replica, le potete anche riascoltare in podcast, andando appunto nella sezione podcast di Radio Wombat, appunto sempre lo stesso sito wombat.noblogs.org, la sezione podcast della prima, a sinistra in menù a tendina ci sono i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat e chiaramente quindi anche di Uro. La potete ascoltare direttamente oppure scaricarla e riascoltarla successivamente. Ciao ciao!